Siamo all'undicesima tappa nella conoscenza di Pio X nell'anno centenario che cadrà con il 2014. Un percorso che riprendiamo è quello del progetto Aurora, che è una delle iniziative proposte appunto dal Comitato per il Centenario di San Pio X. Un progetto che coinvolge una serie di scuole del territorio, tra queste anche l'Istituto Tecnico Commerciale Arturo Martini di Castelfranco, qui rappresentato dal professor Paolo Miotto. Ben trovato. Grazie per questa presentazione. Io direi che possiamo cominciare con una piccola storia dell'istituto per capire il suo radicamento sul territorio, che risale a parecchi anni fa. All'inizio, nel 1962, era praticamente una sede staccata dai ricatti di Treviso e aveva iniziato solo con una classe dei geometri. Alcuni anni dopo, nel 1969, divenne un plesso scolastico autonomo con la dicitura Istituto Tecnico Statale e Commerciale per Geometri di Castelfranco e con l'apertura del primo corso appunto dei geometri. Nel 1974 assume la titolazione dedicata allo scultore trevigiano Arturo Martini. Attualmente è una scuola abbastanza grande, comprende circa 950 studenti e prevede due indirizzi di percorso. Oltre a quello terminale dei ragionieri e dei geometri, prevede l'indirizzo del settore economico nei suoi corsi di amministrazione e marketing, delle relazioni internazionali, dei sistemi informatici e del turistico, che è stato aperto da un paio d'anni. L'altro indirizzo riguarda invece il settore tecnologico, delle costruzioni, dell'ambiente e del territorio. È un istituto che negli ultimi anni si è rinnovato completamente nelle strutture, prevede una serie di investimenti ogni anno notevoli, soprattutto per tenere aggiornati quelli che sono i laboratori. Ci sono 6 laboratori di informatica, 2 linguistici, i vari laboratori di fisica e di chimica, e ultimamente si sta lavorando molto sulle LIM, le lavagne interattive multimediali, ne abbiamo 17, oltre ovviamente la biblioteca, la palestra e i campi sportivi. Ogni anno vengono progettati circa 50 percorsi appunto per gli studenti, cercando di soddisfare non solo quelle che sono le esigenze commerciali del territorio, ma anche proprio la formazione specifica di questi studenti. Un migliaio, insomma, sono tanti, sono un bel gruppo e rappresentano tutta la zona della Castellana, lì dove appunto, tra l'altro, Pio X è nato, perché è nato in quella zona. All'epoca il paese si chiamava solo Riese e basta, e poi dopo la canonizzazione ha assunto il nome di Riese Pio X. Voi state seguendo, appunto, avete partecipato e aderito al progetto Aurora con due percorsi, uno che coinvolge appunto direttamente gli studenti, e mi dicevi prima di iniziare che avete scoperto che i ragazzi non ne sanno poco o nulla di questo santo, anche se è passato appena un secolo. Infatti la grande scoperta e la grande meraviglia che abbiamo avuto noi come insegnanti di religione, siamo 3 in questo istituto, è stato proprio il fatto che i ragazzi conoscono pochissimo di questo personaggio. Per questo abbiamo deciso di fare appunto questo duplice percorso. Da una parte abbiamo previsto una traccia, un itinerario biennale che è iniziato l'anno scorso con 3 classi quarte prelevate da 3 indirizzi diversi e che continua appunto quest'anno, che cercheranno di fare un percorso a ritroso nel tempo cercando di approfondire le radici di Pio X, cioè il periodo iniziale che l'ho visto nascere nel 1835 a Riese, fino a quando nel 1867 è diventato arciprete di Salzano. In questo periodo noi abbiamo cercato di portare appunto i 3 gruppi, le 3 classi, nei 3 paesi, nelle 3 zone principali dove è avvenuta questa prima fetta, questa prima parte delle origini. Quindi Riese, il discorso della sua formazione scolastica e teologica a Padova, l'ordinazione nel 58 a Castelfranco Veneto, e infine dal 63-67 il periodo del suo primo mandato come cooperatore pastorale a Tombolo. Questo è stato appunto un tentativo anche di prendere in mano un periodo storico che il professor Manatto, famoso cultore di Pio X, aveva definito come il periodo più oscuro, meno noto, con meno documenti, e quindi per noi è stato importante cercare di riavvicinare questi ragazzi, ma anche noi stessi, a un territorio, a un tempo che è meno noto, perché allora appunto non era ancora il famoso Pio X. La seconda traccia che abbiamo cercato di portare avanti è quella invece, della costruzione sugli archivi attraverso la stampa dell'epoca di un vero e proprio saggio sul quale sto lavorando io e il dottor Cesare Pasinato, che intende approfondire le relazioni intercorse fra Pio X e il settimanale diocesano trevigiano La vita del popolo. Il periodo che abbiamo preso in considerazione è appunto il periodo in cui lui fu pontefice, dal 1903 al 1914. Il nostro obiettivo è quello di far emergere la lettura politica e sociale che il giornale cercò di divulgare in diocesi di Treviso, seguendo appunto le direttive romane del pontefice. Questo appunto è il saggio che curerete voi, docenti, direttamente, mentre i ragazzi cosa sono chiamati a produrre alla fine, perché qualcosa di concreto o di virtuale dovrà venire fuori? Ecco, i ragazzi praticamente hanno ormai quasi concluso un DVD in parte in dialetto dell'epoca, in parte in italiano, in parte in inglese, dove attraverso immagini appunto d'epoca, in parte note, tratte dalla famosa vita di Pio X del Marchesano, e in parte invece assolutamente inedite, che sono state reperite nei vari archivi di questi tre paesi, Riese, appunto, Castelfranco e Tombolo, ecco, alla fine verrà fuori un prodotto multimediale che dovrebbe servire, oltre che per i ragazzi, nel loro percorso di approfondimento, anche come oggetto da fruire per altri, insomma, per approfondire questo periodo appunto meno noto della storia di Pio X. In questa ricerca, ma visto che ormai il lavoro è concluso, cos'è la cosa che vi ha colpito di più in generale, o voi o i ragazzi, di questi primi anni di Giuseppe Sarto? La cosa che colpisce di più è che fin dalle origini Giuseppe Sarto manifesta già alcune passioni personali che poi svilupperà anche come riforme, in particolare il discorso della musica sacra e del diritto, perché noi abbiamo visto appunto in questi archivi che sono conservate appunto dei quadernetti suoi, in parte poi confluiti nella biblioteca del seminario di Treviso, dove lui già in forma, come dire, delle origini, quindi non ancora ben codificata, non ancora ben riflettuta, però introduce già alcuni elementi che fanno, come dire, segnano un percorso che permetterà a lui di coinvolgere un po' i parrocchiani, la popolazione. E questo riguarda anche la scuola, perché lui aveva istituito appunto delle scuole sia per preparare la formazione dei futuri teologi che non avevano risorse economiche per entrare subito in seminario, sia per le persone comuni, maschi e femmine. Tombolo infatti aveva appeso alla porta della sua casa, dove era in affitto, vicino alla canonica, un cartello scritto appunto scuola per analfabeti, cioè proprio le tracce, le basi minime per le quali poi lui ha cercato in qualche modo di portare avanti anche nel periodo successivo queste riforme. E allora sono scoperte piccole ma importanti per riscoprire questa figura. Ringraziamo allora il professor Paolo Miotto, tutti gli studenti, anche gli altri suoi colleghi che stanno lavorando a questo progetto, e vedremo alla fine, li vedremo questi prodotti. Grazie per il lavoro e per la presenza. Grazie a voi per questa offerta e disponibilità.